Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Chi ci segue assiduamente ricorderà che settimana scorsa abbiamo parlato con CSI Piemonte, il consorzio imprese informatiche che raggruppa 92 enti pubblici piemontesi. A Torino CSI è riuscita a informatizzare quasi tutto l'informatizzabile, dando vita a un servizio il cui punto di forza è che il cittadino trova in un unico portale, con un'unica password, un'unica ID, tutti i servizi web che la pubblica amministrazione gli offre. Questo significa quindi semplicità per chi usa questi servizi, ma anche la possibilità di tirare fuori il massimo dai dati per chi invece questo sistema informatico lo gestisce. E questo grazie al fatto che l'aggregazione di tutti i sistemi informatici sotto un unico cappello fa sì che i dati risultino naturalmente più omogenei, più fruibili, più facilmente incrociabili tra loro. Ebbene, se questa è una regola fondamentale nella progettazione di applicazioni informatiche per la Smart City, parlando invece di infrastrutture, un criterio decisivo è quello della versatilità, di cui ci parla, a partire da un esempio molto concreto, Federico Pedrocchi. Sentite. Vincere un bando quando il comune si chiama San Francisco, beh, non è una cosa da poco. San Francisco è una città americana che ha sempre portato avanti molta innovazione, molta capacità di cambiamento, e questo è avvenuto da un'azienda che non è italiana ma che parla italiano, possiamo dire così. È qui con me Giulia Arneri Borghese. Buonasera. Buonasera. Siete un'azienda, la Paradox Engineering, che è del Ticino, ticinese. Sì, esatto, siamo un'azienda ticinese. E lavorate nell'information technology da tempo, credo. Sì, noi in realtà siamo un'azienda abbastanza giovane, siamo nati nel 2005, ma produciamo e commercializziamo soluzioni di ITC o ICT, che dir si voglia, tra le altre cose anche per progetti di smart city come quello di San Francisco, appunto. Quindi, anzi, mi correggo, siete un'azienda che in breve tempo è riuscita a prendere un bando piuttosto importante. Sì. Che cosa volevano quelli di San Francisco? Allora, la città di San Francisco desidera utilizzare la loro estesissima rete di illuminazione pubblica, perché si tratta di oltre 20.000 punti luce, per implementare un'infrastruttura che consenta servizi avanzati. Quindi vogliono partire proprio dal controllo, dalla gestione dell'illuminazione pubblica, per arrivare poi ad ulteriori servizi come la telelettura dei contatori elettrici, la gestione dei parcheggi, la gestione del trasporto pubblico, addirittura il monitoraggio dei colpi di arma da fuoco e molto altro. Sì. Quindi noi abbiamo... Sembra strano, ma... Certo, no, però è comprensibile, certo, che possa essere utile. Esatto. Noi abbiamo già parlato di sistemi di lampioni, di pali intelligenti, però qui la richiesta da parte di San Francisco era decisamente robusta. Sì, la richiesta è molto specifica, anche nel senso che desiderano un'infrastruttura wireless, quindi un sistema, diciamo, radio, che sia caratterizzato da una, diciamo, scalabilità e possibilità di fare upgrade, quindi aggiungere ulteriori servizi, ulteriori applicazioni nel tempo, nel senza tempo che sia necessario modificare l'infrastruttura stessa. Certo. Oppure dovere fare upgrade all'infrastruttura. Ecco. Quindi la loro richiesta chiave erano che fosse una tecnologia open standard, sì, interoperabile con fornitori e prodotti diversi e via dicendo, proprio per non essere legati. E questo, Giulia, è importante sottolinearlo, perché è un'indicazione che in tutti i progetti di Smart City, per tutti i progetti di Smart City, anche a livello europeo, viene data, e cioè cercate di progettare dei sistemi che non siano rigidi, che facciano una cosa qui ed ora. Esatto. E per sempre quella. La vostra, esatto, piattaforma sarà capace di accettare anche di implementare altri servizi nel tempo, cioè è molto aperta. Sì. Noi lavoriamo proprio in questa filosofia, innanzitutto di non legare alcun cliente ad uno specifico fornitore di tecnologia, nel senso, se noi gestiamo un'infrastruttura di illuminazione pubblica non lavoriamo solo con lampade di uno specifico fornitore. Se si parla di telelettura non parliamo con un solo tipo di contatore, ma con numerosi brand e numerose tecnologie. Nello stesso modo, l'idea di base della nostra tecnologia è proprio quella di avere un'infrastruttura su cui io oggi appoggio la gestione dell'illuminazione, domani aggiungo la gestione dei parcheggi, dopodomani aggiungo la gestione della telelettura e via dicendo. Cioè, certo, ogni volta che io ho un sensore che legge un dato, sono in grado con la stessa infrastruttura di rilevare il dato e trasmetterlo dove poi va analizzato e dove darà origine al servizio, appunto, che forma la Smart City. E qui mi preme sottolineare questo aspetto, rivolgendoci proprio a tutti coloro che ascoltandoci hanno a che fare con possibili progetti di Smart City. Guardate che questa è una differenza davvero importante per riuscire ad avere, a guardare soprattutto lontano, no? Avere un po' di visione. Sì, quello che riguarda San Francisco per noi è quello che ha fatto la differenza, quello che ci ha fatto, ci ha consentito di aggiudicarci il bando. Prima di salutarci, lasciatemi fare una considerazione questa sera, perché purtroppo la sensazione piuttosto netta è che gran parte delle amministrazioni pubbliche in Italia stiano ignorando queste che abbiamo un po' definito come delle regole fondamentali, quella della flessibilità da una parte e quella dell'integrazione dei sistemi informatici di tutti gli elementi delle pubbliche amministrazioni, e stiano invece giocando la partita delle Smart City soprattutto in chiave mass mediatica, insomma per avere un po' di visibilità. Lo dimostra il fatto che, per esempio, molti comuni stanno sviluppando al proprio interno piattaforme informatiche che replicano esattamente quello che altri comuni hanno già fatto e che quindi basterebbe semplicemente adottare e riadattare con costi molto inferiori e maggiori possibilità di fruibilità e di interscambio di dati in futuro. L'ANCI, però, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sembra essersi accorta di questa deriva e noi di Smart City ne parleremo tra pochi giorni con uno dei suoi rappresentanti più autorevoli, il sindaco Piero Fassino, sindaco di Torino. Ma per ora ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.